Possiamo cominciare, buonasera a tutti, da parte dello staff della Biblioteca Provinciale Claudio Augusta, che poi con i saluti della direttrice, la dottoressa Trevisani, che questa sera non potrà essere presente. Riprendiamo oggi il consueto programma di conferenze e approfondimenti con la presentazione del nuovo romanzo intitolato Nicole, scritto da Valtra Guidi. Ne parleremo con l'autrice e con Bruna Maria Dalla Boveri. Non mi dilungo, vi auguro un buon ascolto, una buona serata. Grazie. Prego. Grazie mille, buonasera. Io sono veramente, come sempre, ma più di sempre, commossa di presentare la mia amica Valtra Guidi. Noi siamo, come alcuni di quelli che sono qui, siamo della vecchia guardia. Ma posso dirlo perché non mi sono offesa, io sono la più vecchia di tutti, ma questa non è importanza. Siamo della vecchia guardia e questo rileggerla, questo ritrovarla in questo libro mi ha fatto un piacere enorme. Ci siamo incontrate un paio di mesi fa ad una festa di un amico che è presente e appunto vi avevo detto che ben volentieri, ma volentieri accettavo l'invito che lei mi faceva di presentarla, anzi me ne sento onorata. Ecco, questa è questa premessa maggiore. E mi piace perché attraverso la lettura di questo libro, il quale subito vi presenterò, ho trovato anche vecchi temi che sono stati caldi dei nostri anni di gioventù, in qualche modo. Poi dopo ci siamo un po' perse, perché lei è partita per altri libri, io sono rimasta qua. Ma comunque non perse veramente, ma perse come vista, con il resto, non con il cuore, ma con la vita. Appunto, il libro di Valtra Guidi. Questo libro mi è piaciuto in maniera particolare perché è una specie di... E io prima raccontavo ai ragazzi della Claudia Augusta, che sapevo anche il termine esatto, e adesso non lo so più perché la mia testa fa quello che vuole, e è una specie di creazione, come ogni libro deve essere, una specie di creazione nel vero senso della parola, una creazione di una vita che in verità avrebbe dovuto avere, cioè ha avuto purtroppo la sua fine. Invece, perché una vita deve avere una fine? Perché non può esserci un proseguo, una continuazione di questa vita? Anche perché, come ho scritto nelle mie poche brevi righe sul Corriere, anche il libro dal quale prende spunto appunto Valtra Guidi è il libro Il giardino dei Pizzi Contini di Giorgio Bassani, in fondo anche la sua è un'invenzione letteraria, anche che veramente il giardino c'è, la storia c'è, eccetera, però è in fondo un'invenzione letteraria. Allora io dico, perché un'invenzione letteraria può andare in un certo senso e non può innestarsi un altro filone di invenzione letteraria nel quale questo uno dei personaggi, in questo caso Nicole, il personaggio principale del libro del Giardino dei Pizzi Contini, continua, visto che faccio prima con la parola Contini, continua una sua vita al di là della, se vogliamo chiamare, della realtà, delle possibilità del possibile, al di là della realtà. Io qui ho trovato, e vorrei proprio rileggerla, una frase che mi è piaciuta moltissimo, che è una frase di Elena Reuta, che parla appunto della condizione degli ebrei, cioè essere ebreo significa stare dall'altra parte, sulla sponda opposta, oltre un confine fuori da un territorio che altri accomuna. Ma anche che solo il mondo non tutto uguale a se stesso, multiforme, variopinto, e ancora considerare la storia come un cammino dell'uomo che nasce e muore, ma continua ad esistere nascendo e morendo. Una storia che nella lingua della madre è storia veramente, ricorda le morti e le persecuzioni, ma sceglie la vita. Io trovo questa frase estremamente emblematica perché è proprio il ricordo del giardino, questo hortus conclus degli Pizzi Contini, questo giardino dove si svolge tutta la poca vita che noi conosciamo, a parte questi sfracci veramente raccontate ancora per Giorgio Bassani, il suo Felice Contini, questo arrivare a Venezia per prepararsi una sua laurea, eccetera. Però la vita di Nicola è la vita del giardino dei Felice Contini, dentro questo giardino. E qui questa descrizione, questa piccola trasgressione che io ho voluto mettere, mi sembrava importantissima. Importantissima perché ti dà un certo rilievo di quello che sono le possibilità del possibile. Le possibilità del possibile che sono sì, in questo caso, un presente costruito a tavolino, però che non è più la conseguenza reale di un futuro che potrebbe esserci, di un passato che è stato. È proprio questa creazione di questa persona. Perché questo tipo di creazione? Adesso poi finisco molto in fretta questa mia prima parte, che poi continuerò, per fare delle domande particolari all'autrice. Allora, come mai, e ti faccio subito questa domanda, Walter, come mai hai così assunto, così preso, così elaborato questa storia, questo personaggio molto bello e molto particolare, che ha pregnato in verità, anche dal punto di vista storico, parlo della nostra storia, ha pregnato anche gli anni della nostra storia, perché è una visione particolare di quello che è stato per gli italiani, soprattutto per il discorso di Ferrara. Io Ferrara la conosco bene, conosco molto bene anche alcune famiglie che ci vivono, questa storia della città in particolare, questa storia che ha pregnato i nostri anni, ha pregnato in maniera particolare, perché naturalmente si poteva andare anche in questo, anche nella lettura di questo tuo romanzo, nel fatto di dire: ma se noi consideriamo Nicole non morta nel campo di concentramento, a rendersi quadrata se del padre e della madre ci sono numeri di quando sono stati presi, quando sono stati in numero addirittura di matricola, eccetera, di lei non c'è veramente niente, e questo è molto interessante e significativo, non so perché. Comunque, volevo dire, se raccontare, farli vivere, nascere, creare, dando un principio e per forza, perché infatti anche la stessa Wittig, la stessa Walter fa finire la storia anche della sua Nicole, dando un principio, un inizio, devi naturalmente pensare anche ad una fine, ecco. Volevo dire, se è negare il fatto che ci siano state queste cose, assolutamente no. Questo assolutamente no. Io ho fatto leggere questo libro a alcune persone mentre ero in montagna, e una persona mi ha fatto questa osservazione, che mi ha fatto in qualche modo inorridire, dicendo: ma allora vuol dire che non ci sono stati cambi di concepimento? Per carità del Signore, che lasciamo stare nel mezzo di come, non c'entra niente con questa storia qui. Ma voglio dirvi come le considerazioni le più varie possono venire fuori delle storie. No, questa è la storia della possibilità del possibile, del dare a questa creatura solo abbozzata, non tanto abbozzata, ben definita veramente Giorgio Bassani, comunque, questa creatura mirabile, questa giovane donna, la possibilità di vivere nel presente, cioè nell'adesso, in quello che sono stati gli anni dopo la sua eventuale morte, quello che poteva essere di vivere una vita normale. Allora, torno alla domanda che volevo fare e dico: come mai, qual è stato lo spunto che ti ha fatto pensare a Nicole, in particolare a lei, per questo tuo romanzo? Sì, questa domanda è difficile o anche facile da rispondere, perché questo libro, Il giardino dei Felice Contini, non fa solo parte della storia degli italiani, ma fa parte anche della storia dei tedeschi in alto Adige. Difatti, quando ho raccontato che sto scrivendo questo libro, amiche, coetanee, mi hanno raccontato che per loro Nicole, che il giardino dei Felice Contini, era una cosa, sì, sì, che apparteneva a loro, lingua tedesca anche, molto grande. E forse anche questo mi ha un po' più motivato di scrivere, di stare dietro a questo testo. Perché non appartiene una storia, una persona, un personaggio letterario, non appartiene solo a un gruppo linguistico. Questo spero, che lo so, che deve essere così. Ecco, questo è una risposta possibile, come potrei dare. Questa è una risposta possibile, senz'altro, ma qui mi fa venire in mente un'altra cosa alla quale non avevo pensato, mi viene in mente adesso. E qui tu hai parlato di lingua antilingue. Allora parliamo della lingua di Bassani, la lingua di Giorgio Bassani, lingua raffinatissima, tutto quello che vuoi, e della scrittura in quello che è la lingua tedesca, in versione, forse posso usare questa parola, in versione sul tirolese, ma non in versione volgare, naturalmente in versione eletta sul tirolese, che è proprio il riprendere, il tornare, il veramente usare dell'attualità, della realtà del momento per riportare una storia. E questo mi sembra estremamente interessante. L'hai detto tu e mi è venuto in mente così, non l'ho neanche espresso bene, ma questa è l'idea che mi è venuta in questo momento. Cioè, molto interessante queste cose, ed è interessantissimo, a parte il fatto del pregio che do assolutamente alla traduzione dei due traduttori, di quali conosco molto bene Zangrado, e non conosco, lo dicevo prima lei, non conosco, ma stimo, si è cercato questa Giovanna Iannisetti, a parte il fatto della traduzione, credo che sia per noi, diciamo, sul tirolesi, di lingua, quello che vuoi tu, di Bolzano, leggere anche la versione tedesca di questo libro. Questo mi sembrerebbe un doppio richiamo alla cosa in quanto tale. E possibilmente, se sarà, mi stavi dicendo, e spero che sia così, che sarà, probabilmente verrà tradotto in altre lingue, e qui mi piacerebbe ancora di più vedere come viene questa tua lingua, che è una lingua della memoria, una lingua frammentaria, qui sul frammento metto proprio il mio punto, perché è proprio un discorso a come la memoria è, cioè come la memoria viene fuori, a pezzi, a frammenti, a spazi, vengono fuori degli spazi di cose, non viene fuori tutto il contesto. E poi c'è questo richiamo che io ho sentito molto profondo, questo richiamo al ricordo, appunto, fai morire, povera, non è che la fai morire, non è che nel senso tranche che la fai morire in questo senso qui, però fai morire il tuo personaggio, fai finire la storia del tuo personaggio. Ecco, anche questo richiamo a questo periodo dolorosissimo, e naturalmente in questo modo ritorno, ho cominciato a dire che è una specie di rimpatriata nei tempi, dei nostri tempi, naturalmente richiamo subito anche la presenza di Alex, e non da dimenticare. Scusami. Qua, così. E vabbè, e adesso volevo chiederti un'altra cosa. Prima di tutto mi piacerebbe, visto che abbiamo parlato anche di lingua, mi piacerebbe che, se non ti dispiace, che tu leggessi un pezzettino di questo tuo lavoro. Secondo me, io ho messo 27 piccole note qui perché ti devo più disegnare, però una delle parti, secondo me, una delle più significative di questo libro è la pagina 110, ed è proprio la descrizione dei punti del giardino. Se tu la vuoi leggere, mi farebbe un grande favore. Il giardino dei fitti continui rappresenta il tempo, il destino e la memoria. Rappresenta l'intransitorietà del tempo, la coscienza totale dell'impossibilità dell'amore e il dovere del ricordo. Soprattutto rappresenta una splendida ragazza che a 20 anni era già tutto quel che sarebbe potuta diventare. E da questo punto di vista non era necessario scrivere il seguito della sua vita, ma andava anche mostrato, non c'era nulla da mostrare, solo frammenti temporali per accertarsi del tempo, poiché il passato è un tempo che non svanisce. Ecco, io oltre ad accertarci del tempo, avrei, scusami, una piccola mia osservazione, è anche questo fermarsi del tempo, questo con le parole, riuscire attraverso l'attenzione letterale, cioè attraverso la parola, riuscire a fermare veramente il tempo, a dare vita, a fermarlo e a farlo andare avanti in un senso, in questo senso, in un tempo particolare, che è il tempo del non essere, però della possibilità di essere. Questo anche mi è sembrato una cosa estremamente importante. Ma ci sono moltissime altre parti, quindi tu scusami. Io volevo dire, leggendo questo passo, ho pensato che la traduzione di Stefano Zandando e di Giovanna Giannutelli ha trovato proprio il ritmo della mia scrittura, e questo, di questo sono molto contenta e di questo mi sono molto grata. Grazie, questo ci fa molto piacere, anche perché chiaramente anche la casa editrice, comunque sicuramente sono la validità delle tue traduzioni, non c'è nessun dubbio questa cosa, ma qui tu hai tutto un capitolo intero che riguarda l'italiano, la lingua madre, madrelingua e lingua donna, e questo è anche un altro dei punti che mi è interessato in maniera particolare. E qui tu hai addirittura avvicinato il discorso del suono, del quale parlavi adesso, cioè questo essere capace di tradurre ripetendo il ritmo, tu dicevi il ritmo, quindi è anche il suono, qui hai addirittura attraverso la parola suono usato di una deviazione ancora della parola suono, cioè il fatto della canzone. E qui tu usi due canzoni, una è questa di Manzanichi e un'altra che io non conoscevo, di questa Giuseppe Romeo, Giuse Romeo, ecco, che sono due modi cantati, suonati, per rappresentare quello che è veramente questa lingua madre, questa madre lingua. Una verso mi metto il dito, suona piana, piana, dimmi tutto. Cosa ho fatto di madre? La piana è Iva Zanicchi, no? Per tanti o qualcuno mi ha chiesto ma ci voleva proprio quella. Trova spesso, quasi sempre, fuori fa una vita che si trova, si ritrova in tutta Europa, ma anche fuori Europa. E così trova la madrelingua a buon mercato, biglietti d'ingresso nella vita che lei si negava, che le era negata. E le davano la possibilità di prendere parte al linguaggio parlato del suo amore. Prendere parte di una lingua si può, insomma, cantando le canzoncine a buon mercato. Spiegato, io non ci avevo praticamente pensato, non ti avrei fatto questa domanda, non ti l'ho fatta, mi è gravata, tutto va bene, ecco, e va bene così. Comunque torniamo a cose più, diciamo, forse più interessanti. A proposito di questi piccoli motti, di queste piccole parole di vita quotidiana, ci sono anche altre due forme che mi sono sembrate molto interessanti nel tuo libro. Questo intanto è tradotto poi da tua madre in una specie di crowdfunding intanto, che mi sembra bellissimo, che io riferisco in tante le parole, ma però con lo stesso concetto, la mamma di mio marito, a mia suocera, che diceva ormai, ecco, ormai, e io siamo lì. Già a questo punto, lo dico tuttora, lo dicono anche i miei figli, cioè, che stanno in Svizzera e che nessuno capisce. Però si riferisce ad un altro motto che me lo dice invece tu, che è quello che diceva sempre la Nicole, che diceva intanto è inutile, tutto è inutile. E anche questo mi sembra un carattere particolare, riportato in verità proprio come è descritta anche la Nicole dei Vicecontini Bassani. Questo suo particolare carattere, questa sua non, in fondo, se volete aristocratica, è una parola un po' stupida, comunque questo dall'alto anche nel giardino, i Vicecontini, dall'alto anche fisicamente come luogo, questo considerare il resto del mondo, però anche con una specie di dispiacere, di nostalgia, di non essere capace, di non essere in fondo in grado di entrarci profondamente. Lei entra attraverso questo mondo che non è il suo, ma che cresce vicino a lei, anche attraverso le sue ricerche letterarie, attraverso Daniel Dickinson, anche attraverso questo lei fa questa ricerca. Va bene, che cosa mi dice invece, mi piacerebbe che anche qui tu leggessi qualche cosa, dei pellegrinaggi che tu fai fare alla tua Nicola. Allora torna dal campo di concentramento messo e torna a Ferrara e lì naturalmente torna per poco, torna a Venezia, anche lì non per tanto, e poi va, come dicevi, per il grande mondo, viaggia molto. Però ci sono dei personaggi nella tua storia che l'accompagnano. E sono personaggi femminili, molto interessanti, sono due donne, ma soprattutto questo suo attraverso altri, e qui anche in Bassani c'è in fondo il fatto che Nicole entra in contatto con il resto del mondo attraverso altri, non è che c'entra di più la persona, qui attraverso la sua amica entra in contatto con il mondo terribile, il mondo. Ecco, qui mi piacerebbe, se tu ne hai voglia, che tu leggessi questo capitolo su Nicolai. Sì, volentieri, prendo Nicolai. Siamo. Grazie. spiegare, insomma, come viene aggirato tutto il mondo, come pacifista, come viaggiatrice, come... lei è diventata una persona che ha come esponente di questo mondo del suo sogno, che queste donne che sono attivamente messe come femminista, ecco, però nel senso quello della parola, nel senso quello della parola, perché sì. Sempre purtroppo ha abusato questo sì tempo. Ecco, io ho cercato un'altra parola. E alla fine della sua vita si ricorda a Vukovar. Vukovar, 1999. Dall'aprile 1999 a fine gennaio 2000, Nicola Frizzi-Contini lavora come operatrice di pace a Vukovar. Ha quasi 80 anni e sconta qualche acciacco dell'età, ma è ancora agile, vivace e curiosa. Dice: questo è l'ultimo grande compito che la vita ha disposto per me, lo accolgo, lo eseguo. Per tutta la mia vita ho lottato contro la condizione di estraneità, contro la felicità dell'essere soli. Ho abbandonato, mi va male. Ho abbandonato i panni della principessa ebrea e l'ebrea che sono e ero ha avuto il suo ultimo volto. Nicola Frizzi-Contini ha seguito con partecipazione le sorti della città di confine fin dall'inizio della guerra di indipendenza croata nel 1991. La sua amica la Volpe ci aveva vissuto fino a 20 anni. Dal primo scontro di una certa entità tra la polizia croata e le milizie serbe ad Olomo, se no, quando gli abitanti serbi si rifiutarono di issare la bandiera croata davanti al nuovo municipio, fino agli anni 87 giorni di assedio di Vukovar, Nicole e la Volpe rimasero incollate al telefono, alla televisione, alla radio. All'epoca vivevano a Berlino. Nei mesi della battaglia, in Vukovar, ogni giorno sulla città si abbattevano fino a 8.000 granate. La Volpe quasi impazzì dalla paura. Il suo unico fratello veniva da lui. La Volpe era serba. L'assedio alla città durò fino al 18 novembre 1991. Vukovar fu quasi completamente distrutta. Era una città fiorente, un importante porto sul Danubio, conosciuta per i suoi vini bianchi. La Volpe li cercava ovunque, era il suo modo di cercare la propria anima. Nel massacro di Vukovar, la sera del 20 novembre 1991, secondo alcune fonti, 200 uomini croati furono uccisi e sotterrati in una fossa comune dai soldati serbi. Uno degli assassini era il fratello della Volpe, glielo aveva confessato. La Volpe incanutì dalla sera alla mattina. Che ne sarà di Vukovar? Era la sua domanda ricorrente. La poneva ogni giorno. La Volpe morì troppo presto. Ecco, forse lasciamo qui che appunto è stupendo tutto quanto il pezzo. Non so se volete che lo leggo un altro pezzo che davanti il signore si mette a me la colpa, scusa. Nel 1998 la città fu riammessa alla Croazia. La minoranza serba potete detto dire quando Nicola Frizzi-Contini nel 1989 giunse a Vukovar con l'opera Autrici di Pace, lo fece nell'ambito di un progetto del IPGD, la Jus Verbis Group Demo, lavorava e lavora tutt'oggi per la stabilizzazione e lo sviluppo nel sud-est dell'Europa. Nicole portò le sue esperienze in un gruppo di persone fra i 20 e i 30 anni. Il lavoro di pace inteso anche come organizzazione di feste e parti. Così furono coinvolti i giovani della città di Roma. La Volpe era morta da 10 anni. Suo fratello in quella guerra era stato uno dei tanti violentatori di donne. Aveva confessato anche questo alla sorella, l'unica volta che si erano visti. Nicola Frizzi-Contini era presente quando il fratello della Volpe, non senza sicumera, racconta tutto questo. Lei comprese ogni parola. Lui parlava sempre. Disse: le donne sono soggetti passivi e impressionabili. Sono dominate dalla sessualità. Il fratello della Volpe aveva frequentato le scuole superiori a Belgrado. Disse: il coito è l'unica cosa che le donne praticano sempre in modo intuitivo, in ogni circostanza. L'interesse della donna si riduce al coito. Disse anche: se lo fanno tutti, diventa normale. Si riferiva alle violenze. Non sapeva nulla del passato di Nicola, si considerava un uomo normale. Nicola Frizzi-Contini era a Vukovar anche per questo. Nel 1999 Vukovar è ancora una città devastata. La sua fisionomia è dominata dalle rovine. Quando Nicola arriva, fra di esse fiorescenza il buco. Fabbriche e aziende sono abbandonate, la disoccupazione è salita al 90%. E in quella primavera, come se non bastasse, vengono intensificate le esumazioni. Le fosse comuni vengono individuate e svuotate. Nicola si reca a Berà, dove vengono condotti a bordo di autobus anche abitanti croati dei paesi limitrofi. Per pregare sulla fossa comune benvenuta in quella località. Nicola ha compreso che il vero motivo è un altro. Le persone vengono mobilitate e strumentalizzate, istigate alla reciproca passione. Non c'è ancora pace a Vukovar, non c'è normalità. Lo Jus Verbis Group Demo ha invitato Nicola Frizzi-Contini come consulente esperta. Nicola è membro e parte di questo gruppo di 20 trentenni che sta arrestando un centro stampa. Operatrici di pace, che meraviglioso neologismo. Nuovo anche perché quest'opera di pace è a titolo gratuito. Parlare di opera di pace ha anche sempre un soffio religioso, ma queste operatrici e questi operatori di pace non operano nel nome del Signore. Il loro è un servizio tutt'altro che spirituale. Non so, forse ecco, sono abbastanza emozionata, siamo abbastanza emozionati da questo racconto, e forse è in un certo quel modo anche la spiegazione di come mai una all'inizio della nostra conversazione, una delle possibili spiegazioni di come mai si è interessata di questa riforma. In fondo questa continuazione di quest'opera di pace, questo tentativo di superare questi motivi di crudeltà enorme, tutti gli olocausti più vari, forse è anche questo motivo per cui la vita di Nicola, la nuova vita, la seconda vita, questa vita di Nicola, corpi distruttivi ha un'utilità. E io sono convinta, proprio profondamente convinta, ed è con questo che avevo concluso anche le mie quattro righe sul Corriere, dell'utilità di questo libro, l'utilità di tutti voi. Intanto questo sogno che è di tutti quanti noi, quella di poter in qualche modo emanare, decidere quel che è, non c'è scampo più per me, cioè il fatto della determinazione delle cose, ma che ci possa essere una possibilità altra di svolgimento di una nostra, della nostra vita, di quello che è la nostra vita, di quello che è stata la nostra vita, e di vedere una delle possibilità del possibile. Quando da bambini piccoli ti chiedono che cosa vuoi diventare, hai sempre una specie di paletto, un ventaglio di possibilità, questo che è stato fatto ancora. E qui una delle possibilità del possibile è stata realizzata. Perciò io adesso lascio che il pubblico ti faccia delle domande e ti ringrazio infinitamente di questo libro, ti ringrazio soprattutto di averti rivista, incontrata, di l'onore che mi hai fatto di farti presentare. Grazie. Soprattutto una cosa che ho dimenticato. Io credo che sarebbe interessante, se io ho detto che tu te ne sei andata, cioè praticamente sei qui e lì, sei un po' a nudo, un po' con il dire, racconta un po' di te. Sì. Racconto. Non lo so, non un'altra vita, quella vera. No, quella vera, sì, quella vera. Qual è quella vera? Quella vera adesso si sta tra Brunico e Zurigo. I miei due figli se ne sono andati, cioè hanno studiato lì e sono rimasti lì. Sono due architetti. Mia figlia adesso aspetta il secondo figlio e ha molto bisogno di me. La vita come la seconda vita come nonna. La seconda vita. Niente, fino adesso, sì, adesso. Io sono nata in Austria, sono un Bad Ischl, che sarebbe la città del re austriaco, no? Kaiserstadt, era la residenza estiva della famiglia reale austriaca. E io come mai sono nata lì? Tutto ha una ragione. La ragione è che mia madre ha optato per il Reich nel 38, cioè non lei veramente ha optato, lei era una di nove figli di un contadino a Lubiana. E come la storia era così, che il padre allora decise chi dei figli o delle figlie soprattutto dovevano andarsene, e mia madre con altre due sorelle che se ne andata in Austria e io sono nata. Sì, come figlia illegittima di una donna molto, devo dire, molto intelligente. Mia madre, prima di optare, di aver optato per l'Austria, faceva la cameriera alla Lazio e da Alassio è ritornata a Doviaco da straniera, parlava un italiano bellissimo, che era ubriaco, non si trovava più a suo agio. Volevo aprire i cassetti segreti, ma no, è un segreto. Questa è una, questa mia vita, anche la vita di mia madre, forse la, la vita di noi tutti è una storia esemplare, no? Certo. Esemplare, unica, sì. Unica, sì, ma anche condizionata dalla storia, no? Niente, io, mia madre poi è ritornata con me nel 51-52, siamo tornati a Lubiaco, era una vita molto difficile per questa donna tirare su una figlia, sua madre. Poi io ho fatto la maturità pratica a Bologna e sono andata a studiare a Padova. Questa è una, è anche una, come dire, una cosa non tutta classica del, della biografia a Padovina. C'è qui il mio amico Gerard Bumeta, noi ci siamo trovati a Padova a studiare lettere con un professore molto noto, un giornalista molto noto, Giuliano Baioni. Giuliano Baioni è uno specialista di Kafka, ha scritto diversi saggi su Kafka e ci ha insegnato tante cose. Questa mia biografia è quello di più interessante, ho ascoltato tutti i figli, ho insegnato. A un certo momento sono andata via dalla scuola perché, perché dovevo scrivere. Così è questo destino, è questa parola della scrittura, questa palla fine della scrittura. Scusate, ma mi sembrava interessante anche avere un quadro di questa. Qualcuno vuole fare qualche domanda? Se c'è uno scrittore o una scrittrice cui lei si ispira? Sì, ci sono parecchie. Io quando ho fatto la mia e Durà è per me una, un personaggio, una, anche una biografia che mi ha sempre attirata, come anche la sua scrittura. Poi ci sono diversi, anche diversi, ma ispirati. Anche tanto le giornaliste, sono Falaci, tante donne che scrivono, anche noi, come passano. Sì, io volevo sapere se è possibile, se c'è una spiegazione della, nell'ottavo capitolo che si chiama Love Song di Nicole Pizzi-Contini, canzone della mia umanità, ci sono delle che è poesia, ci sono alcune parti lasciate in tedesco, parti che non sembrano, come dire, intraducibili, quindi credo ci sia stato forse un accordo su lasciarla in tedesco e coinvolgere in italiano, no? L'originale era un italiano. Ah, capito, quindi ha rovesciato. Sì, quindi sono state tradotte in tedesco perché nell'originale erano in italiano. Sì. La Dante, la Dante scelta. Ma nell'originale non era, l'italiano non era tradotto con una nota, no, era lasciato, era lasciato senza traduzione. Sì, questo lo faccio ogni tanto, lo conosco, sì, sì, certo. E io questo lo faccio, sì, lo faccio spesso. La Vera Nicole è uscito sul Corriere un articolo col titolo Giorgio Bassani, ecco la Vera Nicole. Ed è, che anno è? No, due anni fa, no? Tu lo conosci? Sì, l'ho letto, sì. Sì, l'ho letto, ecco. Del 16, no? Sì, è un articolo abbastanza recente. Sì, è recente. Ecco. È arrivata una scoperta che, cioè, sì, nel 16 era l'anniversario di Bassani, no? Lui è nato nel 1916 ed è uscita proprio in questa data una scoperta. Stranamente è uscito anche il mio libro in tedesco. Non avevo fatto questi conti. Mi è successo così. Comunque la scoperta è arrivata nel centenario della nascita di Bassani, e cioè che Bassani aveva una musa. E questa musa si chiamava, era la nobile donna Teresa Foscari Foscoli. Ed era una coetanea di Bassani, e lei conobbe Bassani negli anni 50, lei era uno dei conti Foscari della Villa Malcontenta, no? Vicino a Venezia, vicino a Mestre. E Teresa Foscari era operativa sul fronte della salvaguardia di Venezia e della Laguna. Era amica di Cacciari, era nota come la Contessa Rossa e era una donna molto, molto battagliera. Lei morì nel 2007. Era una donna molto bella, molto bella. C'è anche una foto su. Questo articolo, che loro si sono conosciuti nell'ambiente di Italia Nostra, Bassani e lei, di cui Bassani fu il fondatore di Italia Nostra. Questo non si sa, cioè non è molto noto, molto, molto conosciuto. Sì, e dopo la morte di Teresa Foscari Foscolo, i conti Foscari hanno deciso di aprire i loro archivi ed è venuta fuori la corrispondenza tra questi due personaggi, ecco. E forse questa era Foscari, sì, era la musa di Bassano, questo. Molto interessante, grazie. Una notizia in più che non avevamo io, almeno questo non avevo letto. Qual è stata lei la colpevole dei problemi che ci sono stati in famiglia con i suoi figli, hanno cercato di interdirlo, no? Sì. Ecco, che musa, sì. Era anche musa, era anche musa, ecco. Una donna molto appariscente, molto intelligente, molto. Girava per Venezia con degli alani, sì. Vestita con le piume. Io l'ho vista due volte, allora, tanti anni fa, però era sempre sola, con due cani, non c'era mai un uomo vicino, però tutti che si giravano. Ma era bella, molto bella. Era già un pochettino avanti con gli anni, ma poi leggendo appunto le sue vicende con la famiglia, perché anche lui era un benestante, hanno cercato insomma di dichiarare capace di intendere volere. Non gli hanno lasciato una lira, no. Tutte storie sul Corriere, vedi che abbiamo storie di storie di storie, storie. C'è da seguire della natura. Signori, altro se no vi lasciamo qualcuno? Devo dirti grazie, Marta. Grazie infinite, grazie.